abbastanza ravvisoli del candor della tua fede, e questo è il mio dolor. Dover lasciarti quando fedele ti trovo, ecco il momento estremo in cui concesso sia di vederti. Oh, caro! Oh, oh, come? Dunque, principe, il mio gran padre seco m'appella. Addio, questo vi basti, prence, saper che nell'estremo istante saranno il mio dolor, padre ed amante.